La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci pronti qui alla Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana all'insegna della commedia nelle sale cinematografiche italiane. Due sono i film generazionali che arrivano dall'America, La rivolta delle ex e Miss Marzo. Un'altra commedia in qualche cinema simpatica ed educata per la famiglia, Il super poliziotto del supermercato. E ancora Venature Thrilling in La donna di nessuno, film dall'identità italo-francese. Ci sarà poi un super ospite nella nostra puntata della Rosa Purpurea, Claudio Simonetti, niente meno che il creatore delle grandi musiche, delle colonne sonore dei grandi film di Dario Argento, Profondo Rosso su tutti. All'epoca Simonetti capitanava i Goblin, adesso il suo gruppo si chiama Demonia, ma sarà protagonista di un grande concerto l'8 luglio, la sera a Torino, accompagnando proprio la proiezione di Profondo Rosso. Giocheremo insieme con il DVD Game, le nostre rubriche non mancheranno, insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter cominciare questa puntata della Rosa Purpurea. E come sempre all'inizio noi vi facciamo ascoltare le suggestioni sonore dei film in uscita nelle nostre sale nel nostro audio sommario. Kiki, Nadia, Charlize, la cosa fra noi non può funzionare. Non dirmi che stai rompendo con me in videoconferenza. Non stare a sentire queste signore, loro sono pazze. Connor, ti sentiamo anche se copri la webcam. La testimone chiave è morta, crede che sia stata uccisa? Non lo so. Chi era? Una ragazza del racket che aveva accettato di parlare. Sara, mi dispiace, dovrai testimoniare. Ci vediamo di sopra tra 5 minuti. Certo, ho deciso di farlo. Fai così, Eugene. Quando mi rivedrai sarò un uomo, un vero uomo. Tendila, Eugene, quello non è il corridoio. Sveglia! Ma che succede? Sei caduto dalle scale dopo il ballo e sei stato in coma 4 anni. Perché ci sei solo tu? Dov'è Sidney? Qui dentro. Oh mio Dio. Questo è il vero amore che parla e ci sta dicendo di andare alla villa di Playboy. Ce la farai? Tra l'altro non ho ancora capito perché questo invito. Il mio scopo è quello di unirmi a te per avere un buon ingaggio nel cinema. Come mai una rivista sui bambini? Se vuoi fare un figlio da qualche parte dobbiamo pure cominciare. Norvegia, anno 709. Durante una guerra vichinga arriva uno straniero e non è solo. E sì, non è solo il guerriero Kynan venuto dallo spazio e atterrato nella Norvegia vichinga dell'inizio dell'VIII secolo. Avete sentito l'ultima parte del nostro audio sommario proprio dedicata ad Outlander, il film con il quale vogliamo aprire questa puntata della Rosa Purpurea. Dicevamo quindi Norvegia, inizio dell'VIII secolo, il guerriero extraterrestre Kynan non è solo, dicevamo, perché nella sua astronave planata in un lago, alla maniera di quella guidata da Charlton Heston nel pianeta delle scimmie, si è insediato il Morwin, una bestia dalla forza dirompente e mostruosa. Kynan proviene da un mondo nel quale i Morwin erano stati distrutti, ma un ultimo esemplare della razza lo ha seguito per preparare la sua vendetta sul nuovo territorio. Kynan ha sembianze umane, per questo viene scambiato per un cacciatore di un'altra tribù e fatto prigioniero dai vichinghi. Ma Kynan ha un merito, salva la vita al re Hrothgar e per questo viene accettato all'interno del clan. Anche se le sue spiegazioni sulla causa delle devastazioni cui il villaggio di Eroth viene sottoposto sin dal suo arrivo, vengono accolte con una certa diffidenza. Chi sei, straniero? Perché sei qui? Sto andando a caccia. A che cosa? Dei draghi. No! Credi di spaventarci con queste storie da ragazzini? Perché non mi dici qualcosa di più su questo drago? Ma il re sembra credere a Kynan e la bellissima figlia del re, Freya, addirittura se ne innamora. E così la sua descrizione del Morwin inizia a fare breccia nei guerrieri dell'avamposto vichingo. È un fascio di luce nell'oscurità. Uccide gli uomini. Morte. Distrugge tutto. E ha l'odore della morte. Qui non c'è niente del genere. E invece sì, quella creatura ha scelto il suo territorio e voi ne fate parte. Trovata l'unità di intenti, bisogna fermare la bestia. I vichinghi, capeggiati da Kynan, affrontano la loro ultima disperata missione: sterminare il mostro o andare incontro alla distruzione. Non ce ne andremo! Troveremo quel drago e lo uccideremo! Non servirà a nulla. È troppo potente. Dobbiamo catturarlo. Eccoli qui gli ingredienti di Outlander, quelli di una fiaba, di una leggenda, mischiati però in salsa fantascientifica e un po' splatter. È un film dalle intenzioni dichiarate, quello diretto da Howard McCain, e perciò onesto, un popcorn movie che certo non vuole indurre lo spettatore alla riflessione, ma anzi lo scuote con battaglie, azione e molto sangue. Ma riesce bene a rendere l'atmosfera di impotenza di un popolo rude e disarmato di fronte a un nemico più grande di lui. Non a caso il regista ha affermato che il mito di partenza per questo film è stato Beowulf, il leggendario personaggio del medioevo inglese, diventato a sua volta protagonista di un film recente. McCain mischia i generi, dando vita a un film sospeso tra la mitologia e la fantascienza, e riempendolo di citazioni. Abbiamo detto del pianeta delle scimmie di Beowulf, ma come non vedere i segni di Alien contro Predator o della cosa carpenteriana nel tema della bestia sconosciuta che tiene in scacco l'avamposto umano. Il cast è tutt'altro che disprezzabile, con un intenso Jim Caviezel, il Gesù di Mel Gibson, il grande John Hurt, che sguazza nelle atmosfere misteriose da Harry Potter a Hellboy, e una bellissima scoperta, Sophia Myles, nei panni della risoluta principessa Freya. Insomma, se la vostra serata è programmata all'insegna dell'evasione e non soffrite molto per gli schizzi di sangue, Outlander è un film che vale il costo del biglietto. Diamo un'occhiata alla classifica che, in attesa dell'arrivo di Harry Potter fra un paio di settimane nei cinema italiani, vede un altro colossal impadronirsi della vetta. Settimana scorsa arrivavano nei nostri cinema i Transformer nel loro secondo episodio della saga. Sentiamo cosa hanno combinato al botteghino nella Scream Parade di Daniela Faggion. Media leggera apre la top 5 in discesa dal quarto posto. La ragazza del mio migliore amico incassa altri 210.000 euro e sfiora i 700.000 complessivi. Un gradino sopra in discesa dal secondo, Un'estate ai Caraibi, che mette in saccoccia altri 400.000 euro e solo per poco manca il traguardo dei 3 milioni. Ma cosa vuoi spiegare? Ma è tutto sì chiaro. Laura aveva un altro e l'altro è di te. Stabile al terzo posto il rocambolesco addio al celibato di Una notte da leoni, che guadagna altri 460.000 euro per un totale vicino al 500.000. Perde lo scettro Coraline e la Porta Magica, che con poco meno di 500.000 euro sfiora i 2 milioni dopo due weekend in sala. Forse pensi che questo mondo sia un sogno che si avvera. Il mio nome! Come ampiamente annunciato, Transformers, la vendetta del caduto, conquista facilmente la vetta del box office anche in Italia, andando a incassare più di 3 milioni in 3 giorni, con la media per copia altissima di 5.324 euro. Vi abbiamo nascosto molto, Sam. Non è la mia guerra! Temo che lo diventerà. La Rosa Purpurea. Siamo tornati qui insieme alla Rosa Purpurea per analizzare altri 3 film di quelli che arrivano nei cinema italiani. Cominciamo con La rivolta delle ex. Connor Mead, fotografo, playboy, impenitente, che ha trascorso la vita seducendo e abbandonando bellissime donne, il giorno del matrimonio di suo fratello si trova visitato dagli spiriti, sì, proprio dagli spiriti, dai fantasmi delle sue ex, che gli fanno una sorta di processo sommario. Ci racconta il film Annalisa Misceo. Un uomo, 3 fantasmi, quello del passato, quello del presente e quello del futuro, e la redenzione finale. Suona familiare? Solo che qui non siamo a Natale, anche se c'è tanta neve, e l'autore non è Charles Dickens. Scrooge in questo caso si chiama Connor Mead ed è un ricco e affascinantissimo fotografo di grande successo. Successo sul lavoro, ma soprattutto con le donne, che lui colleziona come un altro celebre Scrooge, zio Paperone, collezionava monetine. La cosa fra noi non può funzionare. Aspetta, non dirmi che stai rompendo con me in videoconferenza. A me sembrava che andasse alla grande. Il problema è che esci con una ragazza per 2 settimane e la fai innamorare. Tu prende lo amore e lo accumula. Tu è come uno baro. Oh, signore, in giro non c'è più nessuno che abbia un po' di voglia di divertirsi. Io voglio divertirmi. Superfluo aggiungere che ovviamente Connor non crede né all'amore né al matrimonio, ma i guai cominciano quando decide di ricordarlo a tutti gli invitati alle nozze di suo fratello Paul. Per me il matrimonio è un'istituzione oppressiva e arcaica, che andava già abolita da qualche secolo. E l'amore? L'amore è il magico cibo consolatorio per gli inetti e gli ignoranti. Alla fine ti ritrovi sempre debole, dipendente e grasso. L'unica che riesce a tenergli testa è una vecchia amica d'infanzia ed ex fidanzata, Jenny. Intelligente, affermata professionalmente e inevitabilmente single. Ascoltami bene, Connor. Questo è il weekend più importante della vita di Sandy. Se provi a rovinare il suo matrimonio, io entro in camera tua di notte e ti taglio la tua appendice preferita. Tutto fila liscio per Connor fino a quando non gli appare il fantasma dello zio Wayne, l'uomo che lo ha cresciuto dopo la morte dei genitori e che gli ha insegnato il mestiere di Latin Lover. Cosa fai qui? Sono venuto a metterti in guardia. Stanotte tre fantasmi verranno a farti visita. È evidente che mi stai prendendo in giro, vero? E ti troverai costretta a provare cose che non hai provato per molto tempo. Quello che accade dopo è facilmente intuibile. I fantasmi apriranno gli occhi al playboy dal cuore d'oro e non sveliamo nessun arcano rivelando che tutto si aggiusta e il vero amore trionferà. Non è sicuramente la storia, infatti, quello che può portare gli spettatori a vedere La rivolta della ex, titolo italiano meno esplicito dell'originale Ghosts of Girlfriend Past. Prevedibile fin dalla comparsa del primo fantasma, si capisce come andrà a finire anche prima in realtà, nonostante la speranza che il cliché non venga rispettato. A salvare la pellicola ci sono dialoghi vivaci e alcune scene veramente esilaranti, opera degli stessi autori del fortunato di Hangover, Una notte da leoni. Se non fosse che regista e sceneggiatori sono uomini, si potrebbe pensare che le disavventure di Connor, un Matthew McConaughey perfetto nel ruolo di amabile sciupa femmine, sono la vendetta trasversale di una donna tradita e arrabbiata. Ma un'analisi più approfondita, l'occhio indulgente con cui il protagonista viene guardato, il ruolo da isterica riservato alla sposa, fanno capire che il punto di vista è decisamente maschile. A salvare il genere femminile, per fortuna, c'è Jennifer Garner, molto più realistica e credibile di tutte le altre signore che cadono come birilli ai piedi del protagonista. La rivolta delle ex, quindi, nei cinema italiani. Noi andiamo a giocare insieme il nostro DVD game che ogni settimana vi permette di vincere splendidi DVD. Oggi è un game veramente particolare, un game di grande valore anche, quindi state ben attenti alle tracce che vi faremo ascoltare. C'è da indovinare il titolo dei tre film che vi proporremo. Sono tre film diversi ma uguali e c'è un indizio dentro quello che vi ho appena detto. E allora, ascoltiamo la prima traccia. Perché cercava di superare il cane a tre teste Halloween? Chi vi ha parlato di Fuffi? Fuffi? Quel coso ha un nome? Ma certo che è un nome, è mio. L'ho comprato da un irlandese che ho conosciuto al pub l'anno scorso. Niente più domande, non mi fare più domande. È una cosa segretissima. Ora statemi a sentire. Tutti e tre voi vi state mischiando in cose che non sono fatti vostri. È pericoloso. Se avete indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it. Come sempre, i vincitori e l'arcano verranno svelati nella prossima puntata. Posso entrare nella sala operatoria? Io ho avuto un trauma da piccola, sono allergica. La gravidanza sarebbe la soluzione migliore per debellare i fastidiosi sintomi. Ho bisogno di un uomo. Quindi o fai un figlio o ti operi. Che cosa buffa. E quello che avete sentito era una clip, un piccolo passaggio audio del trailer di un film che si intitola Tutti intorno a Linda. È una premessa molto, molto divertente e molto interessante, perché ci dà la possibilità di parlare di questo film che in questo fine settimana arriva in una manciata di cinema, però ben sparsi sul territorio, soprattutto nelle grandi città, Milano, Roma, Napoli, Firenze, insomma ci sarà la possibilità di andarlo a vedere. Una commedia tutta italiana, una commedia con intelligenza, come si usava a dire una volta. Noi siamo in collegamento con una delle due registe di questo film, Monica Sgambellone, che ha lavorato insieme a Barbara. Monica, immagino sia tua sorella. Sì, è mia sorella gemella, tra l'altro. E quindi, come dire, abbiamo anche i gemelli del cinema italiano, fantastico. I Coen, alle Coen all'italiano. Non sono gemelli loro, sono solo fratelli, però insomma, ci accontentiamo. No, loro sono fratelli, infatti, non sono gemelli. Senti, Monica, dicevo, una premessa interessante, come abbiamo sentito nella clip, perché qui si prende a spunto con levità, con légèreté, come direbbero i francesi, una malattia che è anche piuttosto temibile per una donna, l'endometriosi, perché la vostra protagonista scopre di essere malata con grande terrore di questa malattia e di essere però di fronte a un bivio, o l'operazione o una gravidanza, ma anche abbastanza alla svelta. E da qui in poi comincia il vostro film, cioè voi vi interessate in maniera relativa dell'aspetto della malattia, ma la buttate un po' in commedia per raccontare di questo mettersi di fronte a una sorta di fatto compiuto. Esattamente, esattamente. Non abbiamo infatti voluto approfondire volutamente la malattia, essendo comunque una malattia piuttosto complessa. Quindi ci siamo limitate a raccontare che cosa accade in una donna, in questo caso ipocondriaca e con la fobia delle sale operatorie, che cosa significava per lei dover trovare un uomo in fretta per fare un bambino. Ecco, allora questa crisi viene a un certo punto risolta perché Linda, che è la protagonista del film, se ne fa un po' una ragione, insomma sceglie non la sala operatoria ma evidentemente il fatto di provare ad avere un figlio. Sentiamo un passaggio audio del film nel quale con un'amica cerca di discutere di come risolvere questo problema. Penso che forse potrei cominciare a sondare il terreno. Perfetto. Lorenzo, già te lo sappi. Giacomo non aspetta altro. Stefano, non ti ha mai dimenticata. Papà, bambino, uguale nessun intervento. Nessun papà, nessun bambino, uguale sala operatoria. Ah, hai paura. Quindi cercare vicino alle proprie conoscenze, perché uno dei temi è anche l'incognita di questa paternità così distante. Certo, assolutamente. Quindi ovviamente non si poteva andare a sondare troppo lontano. Nella cerchia dei suoi amici, almeno cercare più che altro non il padre ideale, perché era abbastanza impensabile, ma perlomeno la figura maschile che poteva incarnare quel ruolo. Ecco, troveremo, diciamo non svegliamo nulla in questo senso, troveremo Linda 9 mesi dopo in sala parto, ma la domanda che rimane diciamo aperta è proprio quella se questo padre sarà un padre giusto per questo figlio e non sarà stata solo una cura per una malattia, no? Esattamente, a questo punto però non posso svelare il finale, quindi bisogna andare nelle sale a vederlo. Allora Monica, ti chiedo, nel 2007 voi avete girato questo film, sì. Arriva finalmente, faticosamente, nelle sale cinematografiche, tra l'altro come dicevo, anche con una dignitosa distribuzione in termini di copertura geografica, insomma chi vorrà andarlo a vedere, bene o male, nelle grandi città che hanno un bacino di milioni e milioni di abitanti, riuscirà ad andarlo a vedere. È già un risultato importante per un piccolo film indipendente italiano, ma ti chiedo lo stesso, 2 anni per trovare una sala, insomma, cosa bisogna fare per aiutare questi film italiani, appunto, di voi registi meno conosciuti? In realtà non sono esattamente 2 anni, perché noi abbiamo finito di girare alla fine del 2007, quindi poi c'è stata tutta una post-produzione che si è allungata, quindi insomma non sono stati esattamente 2 anni, però sicuramente non è facile per i piccoli film indipendenti riuscire a trovare una buona distribuzione, quindi siamo comunque contente che queste città, che sono molto importanti, abbiano accolto il nostro film. Gli attori come sono stati scelti? La protagonista è stata scelta già tempo addietro, perché era una ragazza che ci avevano fatto conoscere nell'ambito proprio della nostra cerchia lavorativa e appena l'abbiamo vista abbiamo pensato che lei poteva essere la nostra Linda. Ricordiamo che si chiama Maria Victoria De Pace, no? È una ragazza di Italo Argentina. Ed è, insomma, ha avuto lei la parte della protagonista perché incarnava proprio quello che noi cercavamo. Perfetto, allora in bocca al lupo a Monica Sgambellone per questa avventura di Tutti intorno a Linda nei cinema italiani. Grazie per essere stata qui alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. E da un film italiano a uno italo-francese, almeno come paternità, il film si intitola La donna di nessuno ed è un thriller ben congegnato dalla regia di Vincenzo Marano. Un passato come direttore della fotografia, anche nella Factory di Ermanno Olmi, visto che curò anche la fotografia di Barnabo delle Montagne, e adesso appunto il passaggio alla regia con questo La donna di nessuno. Nel cast anche Anna Galliena, lo ha visto per noi Daniela Fagion. È un casino lavorare con voi! E allora se la pensi così è un bene, perché ti avviso che questa è la tua ultima volta. Cosa vuoi che mi freghi? Credi che io abbia bisogno di te? Ma prova a guardarti, Melanie. Avanti, dimmi, quanto tempo è che non dormi? Un gruppo di belle ragazze atterra a Parigi su un jet privato e una squadra di poliziotti interviene per arrestarle. Obiettivo è colpire Madame Louise, la maîtresse che le mette a disposizione del suo giro di clienti esclusivi. Una delle giovani, Melanie, è appena andata in overdose di cocaina e Martin Delvaux, il giudice che segue il caso, trova con lei un accordo affinché testimoni al processo contro l'imputata. In aula, però, Melanie non riuscirà mai ad arrivare. Buongiorno. Ehi, buongiorno. È di ritorno, la guerra è finita. Ah, finirà senza di me. Ha cambiato colore di capelli? No, perché? No. Ha saputo, la testimone chiave nel processo di Madame Louise è morta. Non lo sapevo. Che cosa è successo? Beh, dalle mie informazioni è volata dalla finestra. Io contavo su di lei per chiarirmi le idee, ma... Chi era? Il giudice si trova senza la testa e chiave, con un commissario di polizia un po' scomodo a seguire le indagini e una giornalista spregiudicata sulla stessa pista. Jean, cronista d'assalto, riesce a scovare la nuova testimone del giudice, la splendida Sara, e trova con lei un accordo economico per informazioni riservatissime. Non sa Jean che la sua fonte, un'altra squillo di lusso, è da 2 anni l'amante fissa di Delvaux, così come Sara, che si affeziona molto a Jean, non può immaginare che la giornalista sia il nuovo fulcro delle attenzioni del suo bel giudice. Primo lungometraggio firmato da Vincenzo Marano, già regista di documentari TV ma soprattutto direttore della fotografia molto attivo in Francia, La donna di nessuno è una coproduzione italo-francese dalla fragranza erotica e noir ben miscelata. Il plot è interessante, anche se lo svolgimento un po' scolastico toglie fascino alla vicenda. A volte sembra più di assistere a una fiction che a un lavoro per il grande schermo, ma va detto che l'occhio fotografico del regista è indubbio e il suo gusto estetico molto raffinato. Questo a partire dalla scelta della protagonista, la prostituta Sara, interpretata da Candice Hugo, fragile come le rose bianche che raccoglie sui titoli di testa. Nel cast anche una tormentata Anna Galiena, la Madame Louise, che anche in carcere non sa fare a meno del caviale. Come noir di mezza estate si lascia guardare La donna di nessuno, anche se rischia di farsi dimenticare in fretta da molti. La rosa purpurea. Prendiamo a parlare di cinema qui alla Rosa Purpurea, altri film che arrivano nelle sale cinematografiche italiane. È il momento di parlare di una commedia giovanile e giovanilistica che si intitola Miss Marzo e dal titolo potete intuire che la Miss in questione è una coniglietta di Playboy. Infatti la premessa del film è molto divertente, un ragazzo che di fronte alla sua conquista amorosa ha un incidente, cade in coma, si risveglia dopo 4 anni e dopo 4 anni la sua amata è diventata appunto una playmate. Cosa succede allora? Ce lo racconta Diego Giuliani. Eugene, ti amo, credo che siamo pronti. Te lo prometto, farò sesso con te la sera del ballo. Smorfie e sorrisetti la dicono lunga, il contrasto è tutto tra la melassa e il buonismo dei due giovani protagonisti e il dichiarato marchio che la rivista Playboy imprime a titolo e produzione. Quella che avete sentito squittire e dichiararsi pronta al grande passo è la giovane Cindy, collegiale tutta a casa e chiesa, che la perfidia degli sceneggiatori trasforma dalla missionaria antisifilide alla Miss Marzo del titolo. All'origine della metamorfosi da cui prende le mosse l'intera storia, qualche bicchierino di troppo con cui l'altrettanto sprovveduto fidanzato Eugene prova a farsi coraggio. Ci vediamo di sopra tra 5 minuti. Certo, ho deciso di farlo. Vai così, Eugene. Quando mi rivedrai sarò un uomo, un vero uomo. Tendila, Eugene, quello non è il corridoio. Sotto alla ferraglia che avete sentito precipitare addosso al povero protagonista restano seppelliti anche i suoi sogni romantici. La doccia fredda, al risveglio dal coma di 4 anni a cui era stato condannato dall'incidente, arriva da un numero di Playboy di cui l'amico Tucker è un affezionatissimo lettore. A troneggiare dalle pagine centrali nelle vesti non proprio castigate di coniglietta del mese è infatti proprio la sua amata Cindy. In tono con il resto del film, la prima reazione dello scioccatissimo Eugene è di carattere letteralmente intestinale. Cambiato in corsa il pannolone, lo spaesatissimo protagonista viene strappato all'ospedale dal compagno di scorribande e coinvolto in un rocambolesco piano per ritrovare la sua spasimata. Questo è il vero amore che parla e ci sta dicendo di andare alla villa di Playboy. Ce la farai? Ci provo. Sì, così mi piace. Ah, c'era una rampa lì! Non c'è tempo! Ehi, va piano! Ehi! Facile immaginare come da queste premesse il viaggio finisca per rivelarsi una tragicomica odissea. Sulla via di Los Angeles, dove li aspetta la festa di Playboy con tutte le conigliette dell'anno, spuntano così lesbiche russe affamate di sesso, inseguimenti a colpi d'ascia con minacciosi pompieri e l'immancabile Deus Ex Machina che potrebbe schiudere loro le porte del baccanale dei sogni. Hai fatto un piano o vai alla cieca? Chiediamo a Stallone.Megapacco di imbucarci, è il rapper più famoso del pianeta. Potresti farci entrare alla villa di Playboy? Ma sì, certo. Mi sto conservando per la mia ragazza. Senti, bello, questo è un Baldoria a Bass. C'è solo una regola, divertirsi. Ti piace questo? Vieni a prenderlo. Comicità da caserma con derive alla Porky's, insomma, per di più tagliata con l'accetta dei pompieri di cui sopra. Il marchio di fabbrica è quello dei per noi sconosciuti Zack Cregger e Trevor Moore, ex compagni di banco alla New York School of Visual Arts e rodata coppia di protagonisti che sul set e fuori fanno tutto da soli. Recitano, dirigono e sceneggiano portando sul grande schermo poco più delle fantasie cameratesche che immaginiamo abbiano popolato le loro notti al college. Con buona pace del patron di Playboy Hugh Hefner, che a 83 anni con il suo cameo regala al film il suo momento forse migliore. Di smarzo quindi nelle sale cinematografiche italiane, noi a questo punto andiamo avanti e apriamo una seconda finestra sul DVD game di questa settimana. La voce di un bambino, per quanto onesta e sincera, è insignificante per chi ha dimenticato come ascoltare. Cosa misteriosa è il tempo. Potente e, quando ci si intromette, pericolosa. Non dovete essere visti e fareste bene, secondo me, a tornare prima dell'ultimo rintocco. Altrimenti le conseguenze saranno troppo devastanti per parlarne. Se stanotte avrete successo, più di una vita innocente verrà risparmiata. Tre giri dovrebbero bastare. Avete riconosciuta? È la traccia di un film che dovete indovinare. Giochiamo con un DVD game importante e con tre tracce in questa puntata di tre film diversi ma uniti. Ecco, fatemi dire questa cosa. Dovete indovinare di che film si tratta e scrivere la vostra risposta alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere un DVD o forse qualcosa di più proprio di questo film. Non preoccuparti, non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica. No, ti avevo detto che non volevo tornarci. Te lo avevo detto. Non puoi obbligarmi un'altra volta. Ma è per il tuo bene, cara. Hai sentito cosa hanno detto i dottori? No. No. Andiamo avanti con un evento davvero straordinario che si terrà il prossimo 8 luglio a Torino. Avete sentito un passaggio audio, un brano dei dialoghi di Profondo Rosso, uno dei film che hanno segnato la storia del cinema thriller e horror, non solo italiano, ma è veramente un punto di riferimento nella storia di questo genere a livello mondiale. Ebbene, il capolavoro di Dario Argento, di cui stiamo sentendo in sottofondo le mitiche musiche dei Goblin, dicevo, il capolavoro di Dario Argento, interamente girato proprio a Torino, sarà protagonista di questa serata dell'8 luglio, quando in piazza CLN, una delle piazze centrali della città capoluogo piemontese, proprio in fondo a Via Roma, la via che arriva dalla stazione di Porta Nuova e porta verso il centro, in questa piazza intima, raccolta, con le due statue fontana che rappresentano la Dora e il Po, ebbene, si terrà la proiezione all'aperto di Profondo Rosso con l'accompagnamento musicale dal vivo di Claudio Simonetti, fondatore dei Goblin e adesso leader del suo nuovo gruppo, i Demonia. Ebbene, i Demonia eseguiranno le musiche di Profondo Rosso in contemporanea con il film, quindi non si tratta di un concerto, è proprio la proiezione del film dove le musiche, anziché essere ascoltate dalla colonna sonora e quindi dall'impianto di diffusione, saranno eseguite proprio dal vivo dal loro inventore, appunto Claudio Simonetti, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Grazie a Claudio Simonetti per la sua disponibilità. Ricordiamo che l'evento dell'8 luglio è l'apertura del Traffic Festival, appunto, di Torino. Simonetti, davvero una bella sfida questa, suonare dal vivo, riproporre in perfetta simbiosi con le immagini del film di Dario Argento le grandi suggestioni sonore di Profondo Rosso. Beh, sicuramente sì, è sempre musica, è sempre suonare dal vivo, però questa volta, seguendo il film, è una cosa un po' particolare, perché di solito io questa esperienza già l'ho avuta, però l'ho avuta con un film muto che era Nosferatu di Murnau, e in cui appunto l'avevo musicato e suonato tutto dal vivo, però era un film muto. Invece questa volta il progetto è quello di suonare le musiche nei momenti giusti del film dal vivo, anziché mettere la musica già fatta, già registrata nel film. Sarà anche una bella impresa, perché riuscire a separare la musica dal dialogo non sarà facile. Ecco, diciamo allora al pubblico che ci ascolta che cosa vedrà quella sera dell'8 luglio in piazza CLN, che è tra l'altro la piazza che sta in fondo a via Roma, quindi centralissima, con queste due fontane maestose, no? Torino, no? Esatto, esatto. Ecco, cosa succederà? Verrà proiettato su un maxi schermo profondo rosso, e poi ci sarà il palco dove io sarò lì con il mio gruppo, con i Demonia, e eseguiremo la musica dal vivo. La musica però dal vivo durante il film, quindi nello stesso punto in cui c'era la musica originaria. Beh, è come se fosse un concerto dal vivo con la colonna sonora di profondo rosso. Esatto, sì. Beh, certo, i pezzi non saranno tutti completi, perché chiaramente nel film c'erano vari momenti in cui c'era la musica, quindi non è un vero e proprio concerto, però è una cosa molto inusuale e un po' particolare, appunto quella di sentire la musica così com'era allora, però suonata dal vivo. Ecco, come andare a vedere uno stesso film in tre dimensioni. Come si è spiegato, Simonetti, in questi anni il successo e addirittura il mito che accompagna il film Profondo Rosso, che ancora oggi è ritenuto, penso, da tutti gli appassionati italiani una delle perle mondiali di questo genere, ma anche la musica? Cioè, per una volta, ed è successo poche volte sicuramente in Italia e non tantissime volte, ma anche all'estero, a questo livello penso che sia successo veramente raramente. Cioè, c'è lei, c'è l'esorcista. Sì, ma poi l'esorcista è anche sbagliato, perché la musica dell'esorcista non era stata scritta per l'esorcista, perché in realtà è Tubular Bells di Michael Oldfield, era già un album che esisteva già da prima, quindi non era una musica scritta per film. E allora come ce la spieghiamo questo radicamento e anche della colonna sonora? Non lo so, non riesco a capire perché ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, questa musica abbia questo fascino. Addirittura i ragazzini la mettono come suoneria nei telefoni, pur non avendo visto il film. Io non lo so spiegare, non lo so. Poi, essendo uno dei compositori, non posso, ancora meno posso dare una spiegazione. Probabilmente quei due momenti, che sono le prime note iniziali, che sono un refreno ovviamente che rimane in testa, e probabilmente anche il momento in cui si sviluppa tutta la parte degli organi, che è un altro momento di grande esplosione musicale, probabilmente lei ha inventato qualcosa che non stenterei a definire geniale, perché non ci sono altre possibilità, no? Per commentare il perché ancora oggi, se lei va su YouTube, ci sono delle video lezioni di maestri di musica che insegnano a suonare Profondo Rosso. Ho visto, ci sono molta gente che segue, ognuno a modo suo, Profondo Rosso, la suona ognuno a modo suo, sì, è molto carino. Ma non solo Profondo Rosso, però anche tutti gli altri pezzi poi fatti per Argento. Certo. Tenebre, sì. Certo. Però con meno, come dire, presa poi oggi. Cioè, se... Vabbè, certo, no, Profondo Rosso ha delle note che proprio chi comincia a suonare istintivamente suona quelle note lì, anche se le fa sbagliate, proprio perché è un arpeggio, e quindi mi capita quando vado nei negozi appunto di strumenti musicali, da lontano sento qualcuno che suona il piano e cerca di fare Profondo Rosso, insomma. Allora, Simonetti, diamo l'appuntamento per l'8 luglio al nostro pubblico. Sì, allora l'8 luglio vi aspetto tutti, io, Claudio Simonetti con i Demonia, per questa straordinaria serata. Ci sarà anche Dario Argento, in cui proietteremo il film Profondo Rosso. L'ingresso è libero e sarà tutta la piazza, penso che verrà veramente molta molta gente, essendo un evento straordinario, avverranno anche molte persone, anche addirittura dall'estero si prevede, e quindi dove io appunto con i Demonia seguirò la musica di Profondo Rosso dal vivo contestualmente alla proiezione del film. E allora appuntamento l'8 luglio, piazza CLN a Torino, e grazie a Claudio Simonetti per averci raccontato tutto questo. Vi aspetto tutti quanti. Grazie. Grazie a Claudio Simonetti, ospite della Rosa Purpurea. Ricordiamo l'appuntamento con il Traffic Festival di Torino alle 22 dell'8 luglio in piazza CLN, appunto a Torino, questo concerto straordinario con le musiche di Profondo Rosso eseguite dal vivo durante la proiezione del film, proprio da Claudio Simonetti e dai suoi Demonia. La Rosa Purpurea. Si apre la quarta parte della Rosa Purpurea e si apre con le novità dall'America nella nostra rubrica Trailer USA, che attraverso l'ascolto dei trailer originali dei nuovi film americani vi dà appunto un assaggio di quello che poi arriverà inevitabilmente nelle nostre sale. E come sempre per questo nostro spazio salutiamo la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora, Michela, oggi ci concentriamo su un film d'amore che non mancherà di piacere a chi ama appunto il genere sentimentale. Si intitola The Time Traveler's Wife, letteralmente la moglie dell'uomo che viaggiava, ma scopriremo che questi viaggi sono metafisici. Si tratta infatti di uno di quei film sull'amore che trascende il tempo. Pensate, per esempio, a Ghost, per dirne una, oppure anche al più recente Benjamin Button. Questa volta l'elemento sovrannaturale qual è? Sì, il film è l'adattamento cinematografico di un bestseller americano. Pensa che avevano offerto all'inizio la regia a nomi del calibro di Steven Spielberg e Gus Van Sant, ma la scelta è poi ricaduta su Robert Schwenke. È la storia di Henry, un colto e affascinante bibliotecario interpretato da Eric Bana, che per un difetto genetico scompare quando è troppo stanco e stressato. Si scioglie nell'atmosfera e scompare per poi ricomparire. Insomma, un giorno incontra una bambina che si chiama Claire ed è subito amore fatale, anche perché lui poi, scomparendo e riapparendo, sa che quella sarà la donna della sua vita. Lei, Rachel McAdams, crescendo si ricorderà tutta la vita di lui finché un giorno se lo rivedrà davanti. I've been waiting for Henry my entire life. It's you. I wrote down every time that you came to visit me. You told me that you go back to the same places a lot. Yeah, it's like gravity. Big events. Pull you in. I was a big event. Ovviamente Henry non invecchia mai, è sempre giovane e bello. Tra i due scoppia l'amore. Henry, felice, chiede a Claire di sposarlo. Nasce una bambina che lui vedrà tra una scomparsa e l'altra, cioè la vedrà in anteprima, finché la convivenza a lungo andare tra i due diventerà sempre più difficile. Claire infatti si illuderà di avere una famiglia felice, ma presto il sogno si rivela solo un'illusione, perché nei momenti clou suo marito scompare. I can't control it, it just happens. I wish it didn't. You're back. Did I miss Christmas? What do you want to talk about? How bad it feels to sit here and wait for you? E ovviamente quel che ci chiediamo, forse un po' ingenuamente, è se l'amore trionferà. Di solito sì, in questo tipo di film, ma per saperlo bisogna aspettare il 20 novembre, data in cui il film uscirà in Italia. Negli Stati Uniti invece sarà nelle sale il 14 agosto. Grazie a Michela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. E a questo punto apriamo la pagina dei DVD, le nostre recensioni, fra poco con Claudio Pofi, ma subito invece l'ultimo frammento del film misterioso di oggi. La prova è fra due giorni appena. Davvero? Non lo sapevo. Immagino che Victor ci sia riuscito. Non lo so, noi non parliamo mai del torneo. Victor è più un tipo fisico. Voglio dire che non è particolarmente loquace. Per lo più mi guarda a studiare. Un po' irritante, in effetti. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Come sempre, l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere questo DVD, se avete indovinato. Penso che ormai gli elementi ci siano e guardate che è un DVD game davvero di straordinaria entità, quindi non lasciatevelo sfuggire. Vi ricordo sempre che il nostro indirizzo di posta elettronica, ve lo ripeto, larosapurpurea@radio24.it, è anche l'indirizzo nel quale mandare le vostre suggestioni, i film in cui vi siete maggiormente identificati, perché cominciamo una lunga volata verso il mese di agosto che ci vedrà insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30, con un programma che sarà incentrato sul cinema, ma soprattutto sull'immedesimazione che con i film la gente ha. Il programma si intitolerà La vita in un film e vede proprio al centro il concetto del rivedersi dentro a un film della storia del cinema. Quindi tenetevi pronti, perché agosto potrete chiamarci. Tra l'altro sarà un programma in diretta e quindi ci sarà la possibilità di intervenire per dire la propria su questi film della nostra vita, o meglio sulla nostra vita rivista dentro i film. Quindi i suggerimenti sono tutti assolutamente ben accetti, anzi richiesti. larosapurpurea@radio24.it. Fine della parentesi, ci spostiamo a 7 giorni fa. Ascoltiamo invece qual era il DVD game della scorsa settimana. Ci stiamo avvicinando. Attenti a dove mettete i piedi, il monte Sneffels è subdolamente infido. Che vuol dire Sneffel? Perché non glielo dice lei, professore? Sneffels è il nome della montagna dove il personaggio di Lidenbrock sembra che abbia trovato una porta verso il centro della Terra. Si trattava di Viaggio al centro della Terra, il Colossal in 3D. Hanno indovinato per primi e hanno quindi vinto il DVD Achille Ballabeni di Bologna e i piccoli Aurora e Michele Darè di Cavanella d'Adige di Chioggia, provincia di Venezia. Riceveranno appunto a casa questo DVD con tanto di occhialini per poterlo vedere in 3D, appunto, anche davanti al proprio televisore. E allora chiediamo di raccontarci questa edizione in un video di Viaggio al Centro della Terra al nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Eccoci pronti per raccontare questa splendida edizione di Viaggio al Centro della Terra di 01, che riprende la trama lineare del romanzo originale di Jules Verne. Ci racconta di questa spedizione scientifica di Trevor, suo nipote Sean e la guida Anna. Si ritroveranno intrappolati in questa caverna dove l'unica via di fuga incredibilmente è in realtà la discesa negli abissi della Terra. Scopriranno creature mai viste. L'opera arriva in un video con una qualità ineccepibile su DVD, con delle ottime tracce in italiano e in inglese in Dolby Digital. Naturalmente qui la grande chicca è la versione in alta definizione Blu-ray, perché 01 offre la possibilità di visionare l'opera non solo in 2D nella versione bidimensionale, ma anche 3D nella versione che va visionata con gli occhiali anaglyphic, quelli colorati. Diciamo che è una tecnologia del 3D più vecchia e sicuramente non è quella offerta nelle sale cinematografiche, ma sicuramente l'effetto tridimensionale c'è tutto. Grandissima quindi qualità video, anche la qualità audio naturalmente non manca, perché c'è una traccia oltre che in inglese anche in italiano in DTS a elevata risoluzione, e sono presenti ben 3 approfondimenti sulla lavorazione e sugli effetti speciali del film. E le musiche che state ascoltando sono tratte da un film di Louis Buñuel, Terra senza pane, perché un cofanetto, anzi due cofanetti straordinari ci restituiscono parte importante dell'opera di questo originalissimo maestro della storia del cinema. Claudio. Sì, da Minerva Raro Video partiamo con questo straordinario cofanetto, il primo pubblicato e distribuito da Medusa, che contiene 3 importantissime opere che sono state realizzate intorno alla fine degli anni 20. Parliamo del Cane Andaluso, dell'Età d'Oro e l'Assurdes, Terra senza pane. Sono 3 capolavori immortali del cinema surrealista, un'edizione curata da Enrico Ghezzi e Donatello Fumarola, che tra l'altro ha curato la realizzazione di un libretto bilingue presente all'interno del cofanetto. Che dire, la qualità video di queste 3 opere è al meglio delle possibilità tecnologiche moderne. Naturalmente stiamo parlando di opere degli anni 30, l'audio naturalmente monofonico. Nel caso di L'Assurdes, Terra senza pane, c'è una voce fuori campo in francese, ma sono disponibili dei sottotitoli in italiano e in inglese. Tra i contenuti extra, sempre di questo primo box, un intervento del musicista e cantante Franco Battiato. C'è un cortometraggio inedito intitolato Dry Martini di Adolfo Arieta, con testi di Buñuel. Il secondo cofanetto propone 3 opere in bianco e nero realizzate dal maestro intorno agli anni 50, Adolescenza torbida, Salita al cielo e L'illusione viaggia in tramvai. E noi invece andiamo a tempi più recenti con Stella, un film che ha incantato le giornate degli autori all'ultima mostra del cinema di Venezia, la storia di una ragazzina che diventa grande, che diventa adolescente e che adesso arriva in DVD. Ascoltiamo la clip. Ciao piccola, come va? Ciao Stella. Aia. Che c'è? Hai fatto a botte? Che cos'hai all'occhio? Uno stronzo voleva prendermi il pallone. Oh, cavolo, ti ho fatto un occhio nero. Devi imparare a difenderti, ragazzina. Era grande. E va bene. Mica male come primo giorno di scuola, brava. Papà potrebbe venire a picchiarlo. No, altro da fare. Il DVD è di Warner Bros. Ci ripropone al meglio questo racconto ambientato intorno alla metà degli anni 70, la storia di questa ragazzina del quartiere operai che viene ammessa a frequentare il primo anno di liceo, un luogo dove non riesce proprio ad amalgamarsi con i compagni, sino al momento in cui non incontrerà questa figlia di ebrei emigrati prima della classe, con cui stringerà una singolare amicizia. Il film autobiografico della regista Sylvie Vereid, attraverso questo spaccato della società della fine degli anni 70, ci racconta questo senso di libertà che dona la cultura come vera e propria, diciamo, scialuppa di salvataggio all'emarginazione. Notevolissima la qualità per questo DVD di Warner. La proposta per le lingue italiano e francese in Dolby Digital multicanale, purtroppo come contenuti speciali è presente solo il trailer. Grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni qui per parlare di DVD. A presto, un saluto. E si chiude qui la puntata della Rosa Purpure. Appuntamento al prossimo sabato alle 18 e alla prossima domenica alle 9 del mattino per chi ci ascolta in replica per un'altra puntata del nostro programma incentrata in gran parte su quello che è il vero evento cinematografico di questa estate in Italia, l'uscita di Harry Potter il prossimo 15 luglio. Avremo davvero pane per i denti di tutti i fans di Harry Potter, interviste esclusive con gli attori, con i protagonisti e tante curiosità proprio legate al mondo di Harry Potter. La prossima settimana qui alla Rosa Purpurea su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.